Ma dò sta l'autobus? A novembre la città stante, grazie a Dio stavo inerme, è stato sempre più forte. C'è questo qui vicino a me che puzza, ma io dico lava della mattina, no? Che poi metti che devi stare vicino a uno che aspetta l'autobus e già non è contento, ti puzzi pure, mi va male. Conducente non arriva all'autobus.